Italia in controluce. Daniele Biachessi in conduzione di Italia in controluce, l'approfondimento di Radio 24 che indaga nella cronaca locale, politica nera, casi giudiziari, problemi ed eccellenze delle città. Siamo alle ultime battute della campagna elettorale amministrativa che si tiene tra il 28 e il 29 marzo nel nostro paese. Eravamo partiti 3 settimane fa con la Lombardia, poi la Campania. Oggi è il turno del Lazio. Alessio Maurizi. Oggi mettiamo alla prova le 3 candidate per la presidenza della Regione Lazio per un breve confronto di idee sull'argomento più spinoso della politica regionale, cioè la sanità, partendo dal dato che il Lazio ha il debito sanitario più alto in Italia. Si tratta di 3 donne, in ordine alfabetico Emma Bonino, Marzia Marzoli e Renata Polverini. Per quanto riguarda le liste, Emma Bonino è sostenuta dalla lista Bonino-Pannella, Partito Democratico, Italia dei Valori, Sinistra e Libertà, Federazione della Sinistra, Partito Socialista, Lista Civica, Cittadini per Bonino e Verdi per Bonino. Marzia Marzoli invece è sostenuta dalla Rete dei Cittadini, una candidatura anche in opposizione alla politica tradizionale. E poi c'è Renata Polverini, appoggiata dal Partito della Libertà, la destra e l'UDC. Come risolvere il debito della sanità, dunque, garantendo standard di salute per i cittadini del Lazio? Risponde Emma Bonino. Da una parte i cittadini hanno pagato carissimo la copertura, diciamo, del buco famoso dei 10 miliardi, lo pagheranno per i prossimi 30 anni. Dall'altra c'è ancora un disavanzo importante, ancorché ridotto, e siamo più o meno a 1,4 miliardi, più o meno. E io credo che la soluzione possibile è, primo, la legalità cura la sanità. Quindi le leggi debbono essere rispettate, ivi compresa la disponibilità che gli istituti pubblici, e io vorrò anche i privati, debbano dare alle prenotazioni. Oggi non avviene così, la gente chiama e pensa che non c'è posto. Secondariamente penso che bisogna che gli ospedali si devono occupare dei malati e che le fragilità della nostra regione debbono trovare servizi sul territorio che sono più umanizzanti e costano anche meno. E quindi l'infermiere scolastico, quindi il medico di famiglia il sabato e la domenica, in modo che la gente non si debba precipitare per qualunque cosa al pronto soccorso o negli ospedali. Io penso che da questo punto di vista in 2 anni si possa uscire dal commissariamento varando questo vero e proprio piano sociosanitario. La trasparenza anche nella nomina dei primari in base al merito è uno dei punti su cui insiste anche la Rete dei Cittadini di Marzia Marzoli. Per quanto riguarda la sanità, noi diciamo sempre taglia agli sprechi, e gli sprechi sono anche quelli della politica. Noi siamo per aprire il bilancio della sanità e vedere laddove si è sprecato, dove non è servizio che ricade sul territorio, soprattutto nelle periferie, perché dobbiamo dirlo che la periferia soffre di più di tutti, il problema della sanità deve essere comunque tagliato, perché se è un problema di deficit qualcuno dovrà tirarle fuori le risorse. Le risorse sono nel risparmio. I primari dovrebbero essere dei grandi professionisti, invece sono scelti dalla politica. E questo è sbagliato. E quindi farmaci sostitutivi, perché? Perché purtroppo la spesa ricade soprattutto su quello che è poi il discorso dei medicinali, sono troppo esosi i prezzi e quindi dobbiamo ricorrere a tutto ciò che è risparmio, e anche questo è un grosso risparmio. Nel nostro programma poi ci sono anche delle cose che riguardano anche a una città come Roma, e quindi gli infermieri di quartiere, un tornare a parlare di piccole realtà. Punta, tra le altre cose, a rinegoziare il debito della sanità laziale con il governo il candidato del centrodestra Renata Polverini. Ho chiesto sin dall'inizio della mia candidatura di rinegoziare il piano di rientro con il governo nazionale. Ricordo che la Regione Lazio è commissariata, ha il più alto debito sanitario di tutto il resto d'Italia, il 60% del debito sanitario è della Regione Lazio. Per questo i cittadini pagano le addizionali IRAP e IRPEF più care d'Italia. Questo non è un dettaglio. Il mio piano prevede un rientro in 3 anni, rinegoziando appunto il piano di rientro. Non ci saranno chiusure di ospedali né taglio di posti letto. Quindi il mio piano prevede di intervenire pesantemente sugli sprechi e sulla cattiva gestione, a cominciare dalla spesa farmaceutica che nel Lazio è lievitata incredibilmente negli ultimi 5 anni. Prevede la rimozione, se necessario, necessario degli amministratori che hanno dimostrato incapacità. Le nomine degli amministratori, dei primari, saranno semplicemente dettate dal merito e dalla professionalità e dovranno rispondere esclusivamente a rendere il servizio efficiente, giusto e facilmente accessibile. Italia in controluce. Questa è una storia che viene dall'Argentina, ma riguarda tutti noi. Perché in Argentina milioni di persone portano nomi e cognomi italiani, o comunque hanno contatti forti con il nostro paese. Poi perché in Italia, da anni, è in corso un processo che riguarda alcuni nostri connazionali inghiottiti nei sottoscala dell'ESMA di Buenos Aires durante la dittatura militare, poi torturati, uccisi e fatti sparire. All'ESMA c'erano donne incinta che venivano fatte partorire e poi uccise. Quei figli finivano adottati da famiglie bene, coppie sterili, in gran parte militari. Questa è la storia di un figlio ritrovato, una storia drammatica che però finisce bene. Cristina Carpinelli. L'indirizzo è abuelasdeplazademayo.org. Scorrono nella parte alta del sito foto di ragazze e ragazzi, coppie, giovani, bellissime, quasi tutti sorridono. Quei ragazzi sono scomparsi, desaparecidos in spagnolo. Le foto scorrono e per ogni coppia c'è un'indicazione. Figlio che doveva nascere tra marzo e aprile 1977. Figlio che doveva nascere il 10 giugno 1977. Al fianco di questo nastro di visi che scorrono c'è una scritta. Se sei nato tra il 1975 e il 1980 e hai dubbi sulla tua origine, consulta i casi che stiamo ancora cercando. La maniera di vivere questa famiglia. La maniera in cui si viveva nella mia famiglia, la violenza di mio padre, io non mi sentivo, il mio essere, io non mi sentivo parte di questo. Alejandro, 32 anni, è il figlio di Victor Alejandro Gallo, negli anni della dittatura argentina ufficiale dell'intelligence dell'esercito. La madre di Alejandro si chiama Susana Colombo. Alejandro vive a Buenos Aires. Il padre è un uomo violento, finirà in carcere per omicidio. Ma nessuno immagina quale possa essere la vera storia. Nessuno, tranne Alejandro, che aveva un dubbio. Sentiva, dirà, un vuoto continuo dentro di sé. Eso está dentro. Ce l'hai dentro, lo senti. Senti che non appartiene a quella famiglia. Era un vuoto grande, cercavo la mia identità. Andare per il mondo senza identità è una cosa terribile. Per caso, il ragazzo si imbatte nel sito delle madri di Plaza de Mayo, madri orfane di figli che ora si fanno chiamare nonne. Le abuelas cercano i nipoti scomparsi. Alejandro si presenta davanti alle abuelas. Le nonne si guardano sconvolte. Il ragazzo ha lo stesso identico volto di Abel Madariaga, 59 anni, segretario della loro associazione. Il DNA dirà il resto. Sono arrivato il 3 febbraio ad Abelas. Il 4 avevo già la richiesta per il prelievo del sangue, per fare l'analisi del DNA. Quando arriva il risultato sono con Marcos dell'associazione. Marcos mi dice: vuoi sapere la verità? Io gli dico: certo. E lui: allora ti chiami Francisco Quintela, tuo padre è vivo, lavora con me e ti cerca da 30 anni. Io allora mi misi a piangere, a ridere, a urlare, a saltare, sembravo pazzo. E quando mi sono calmato un po' abbiamo preso un taxi e... Quando mi pude calmare un pochino, nos tomamos un taxi e nos fuimos para... Golpea la puerta. Mi dice: Abel lo buscano. Quando apro la porta. Bussarono alla porta e mi dissero: Abel, lo abbiamo trovato. Apro la porta e vedo Estela, Maria Carlotto. Estela mi dice: abbiamo trovato tuo figlio. Ero come rintontito, instupidito. Ho visto tanti ricongiungimenti, ma mai ho pensato al mio. Mentre entravo nella sede delle abuelas, mi ritornava in mente mia moglie, ricordi di lotta, e poi avevo voglia di abbracciarlo, stringerlo. Era una voglia forte, era il mio corpo, il mio sangue. Ricordi della lucha. Io lo che tenía ganas era di abbracciarlo, di sentirlo, perché è il mio corpo, anche mi sangue. Lo bueno di tutto questo è che io encontré un padre, perché la maggioria dei casi non encuentran. Sono stato fortunato, ho incontrato mio padre, perché la maggior parte dei ragazzi come me non hanno potuto ancora abbracciare nessuno. Ci siamo abbracciati, fusi nell'abbraccio. Stai correndo e, bueno, quebrado, llorando, gritando e riendome, así. Era un abbraccio forte, bellissimo. Alejandro è in realtà Francisco Madariaga Quintela, il nipote 101, ma soprattutto il figlio di Abel. La madre Silvia, mentre era al quarto mese di gravidanza, fu portata via dai militari in una Ford Falcon. Morì dopo il parto. L'ufficiale che la torturò e la uccise portò il neonato a casa ancora con il cordone ombelicale attaccato. Quando Abel e Francisco si sono abbracciati dopo 32 anni, Abel ha detto di aver sentito che Silvia era lì con loro e di aver sentito quell'antica felicità che inseguiva da oltre 30 anni. Qual è stata la prima cosa che vi siete detti? Gli hanno chiesto tutti i giornalisti e Abel ha risposto: andiamo a casa. Che querés hacer? Vamos a casa. Bueno, vamos. Italia in controluce, l'approfondimento di Radio 24 sulla cronaca italiana, www.radio24.it con tutte le puntate, il gruppo su Facebook, Radio 24 Italia in controluce, l'email controluce@radio24.it, a risentirci lunedì alle 6.30.